capito, sì, dopo il Rosario. Quindi oggi siete in Chivi, giustamente? Bene, non sei nata. Infatti, è una cosa da così, uno che ha con i parenti. Romanco, dico, non si vede quasi mai, vado a Romanco di una fescia. Adesso mi fermo un attimino e ti do subito i controlli. Non ho avuto la sensazione di dire vabbè, la volata, mamma non me li ho trovati, la piccola ci nuda, adesso c'è questi due cesti che adesso me li porterò appresso, prima di avere la mia società provo a comprovare se li trovo, queste due le valdrà conto. Ma poi da un po' gli impegni che te li alzeni. Purtroppo, ho già telefonato e lui ha detto guarda che se non le trovo vieni a casa e ti ricordi il cosiddetto. No, anche perché ci sarà roba anche, non solo roba di conservazione, magari c'è anche qualche cosa da, tipo salsiccia, così così, molte volte le fanno anche cookie, cose così, ci sì. Cosa ti devo dire? Mi dispiace che stia lavorando. Da una parte è male, dall'altra parte è bene, è lui che lavori. Ah beh, quello sì, senza ombra di dubbio. Il lavoro purtroppo è quello che deve, bisogna prendere e tenerselo a conto. E qualche volta se quando c'è da porgere un'altra guancia, si porge l'altra guancia, volentieri, anche perché è cosa che fa per te, ci sono se questo qua, invece ci sono quelli per esempio che sono gli assattivi, abbaicano l'ori di un travaglio, l'ingresso, si presenta lì all'ultimo minuto, magari devi dare delle consegne, cazzo ti devi mandare più taglio, quella è anche caponaggine, capito? È maleducazione, non avere rispetto del collega che queste cose qua, puro cazzo che conosce tutti quanti i diritti, però mi sono pure i doveri me, non si dimentichiamo di chi come, mi sono i diritti, ma mi sono pure i doveri, sono molto severo su questo punto di vista, io guarda, perché cioè, si parla, è tutto la puntualità, l'anticipo e tutte queste cose qua, è serietà della persona. Vabbè, io quando ho appuntato ci vado sempre un quarto d'ora, 20 minuti, più, sono anche esagerati a volte. Però se ho fatto così e preferisco andare prima che farmi aspettare, perché a me aspettare non mi piace. Certo di sì. Va bene. Ma oggi pensavo che fosse una brutta giornata, invece c'è un po' di venticello, la verità, ma leggero, cioè il mare è un pochettino così mosso, ma niente di che già. È una bellissima giornata qua, di sole. Sì, è bella, sì. Oggi è bella scendere a pescare, io mi ricordo che quando sono scendete la Panna Serena, siamo andati a mangiare a Capodanno da un amico a Platano, no? E poi gli dai tu il giorno dopo venite domani che mangiamo il resto che ha avanzato un po' di roba per gare, vedi tu l'altro ancora. E tu sì, veniamo ma verso mezzogiorno. E a me mi è venuta l'idea, cioè con un po' di esca nel freezer, e pare che mi porto la canna. L'ho detto anche al cugino di mia moglie che è un partito della pesca, lo so se c'ha attrezzature superiori alle mie, c'ha canne da 5 metri, ci ha portato un po' di attrezzature a carrello, questo e quell'altro, ho portato una cannetta alla barca e se vuoi sarri lì, quando mi ha detto l'accendi se vuoi sarri lì, e cosa vuoi bigliare? C'ha un po' di male Gianluca. Io ho bigliato una spigola da un chilo spazio, e lui con quella canna che mi ha bigliato, che mi sono fatto da me, ma mi ha bigliato, e ho fatto vedere la spigola, ma poi tutti in giro, ah quella canna male, mi ha bigliato lui, che ti ha fottito. Ah no, quella canna di bambù. Io avevo una cannetta di chissà da barca, che si minoretti proprio, c'era stata un metro così, di quello piccolino proprio, e col mulinello di quello dei cinesi, che io la usavo, non so perché cosa, la uso quella di per i calamari per le secchie, là. E subito sto mica, lo sento, mi sta sgridando, lo sento mio figlio. Beh, sono già pronto giustamente, hai detto le cinesi, giustamente quello è te. Ti saluto Gianluca che mi do una lavattina così veloce e poi sta andando. Ti auguro una buona giornata e faccio gli auguri a tutti quelli che sono in ascolto indistintamente. Ci sentiamo alle prossimine Gianluca, buon lavoro. Grazie Gianni, anche a te, buon tutto, buon divertimento, buon pranzo, buon Natale a te, a tutto il cuore familiare, dai. Saluto a tutti, ci sentiamo alle prossime, ciao, passate una buona giornata.